Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La Cina e la green economy, ma vuoi vedere che da punto debole della lotta al cambiamento climatico la Cina finisce per trasformarsi in un campione dell'economia verde, della green economy? Beh, insomma, i segnali ci sono da tempo. Anzitutto segnali di necessità, perché basta farsi un giro nelle megalopoli cinesi per rendersi conto che il problema dell'inquinamento non può essere semplicemente così ignorato, e questo la leadership cinese lo sa benissimo. Per non parlare anche delle condizioni dell'ambiente nelle grandi città industriali, le zone minerarie e persino nelle campagne, da cui arrivano gran parte anche delle rivolte, quelle poche spesso soffocate violentemente dal regime. E poi ci sono altri tipi di segnali, come il fatto che la Cina è diventata il primo produttore al mondo di pannelli fotovoltaici e che quest'anno addirittura ha sorpassato gli Stati Uniti, diventando il primo investitore al mondo in ricerca e sviluppo nel settore delle rinnovabili. E ora arriva un'altra novità: da un meeting, il meeting annuale del Consiglio cinese per la cooperazione internazionale sull'ambiente e lo sviluppo, che è un potente think tank presieduto dal vice premier Li Keqiang, che molti indicano come probabile successore di Wang Jiabao, ebbene viene fuori una proposta che è a dir poco ambiziosa anche per le cifre in ballo. Parliamo di un meeting chiusosi pochi giorni fa, il 16 novembre. Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di energia, è stato a Shanghai poche settimane fa e allora chiediamo a lui di aiutarci a commentare queste novità. Buonasera Jacopo. Buonasera Maurizio e buonasera agli ascoltatori. La cosa più interessante è il fatto che la politica cinese si è accorta del problema delle emissioni e del problema dell'inquinamento più in generale, e quindi hanno questa volta varato in modo pubblico, strutturato, un programma per ridurre le emissioni di anidride carbonica, cioè il gas accusato di cambiare il clima e di creare il cosiddetto effetto serra. Però hanno scelto anche una modalità tutta loro per farlo, vero? Hanno scelto una modalità diversa da quella europea, più simile a quella degli Stati Uniti, per intenderci. Hanno deciso di puntare sull'efficienza energetica, cioè non diamoci un limite alla quantità di anidride carbonica e altri inquinanti emessi. Ovviamente ci sono poi limiti di legge e quant'altro, però non diamoci un obiettivo di emissioni massime, ma diamoci un obiettivo di efficienza energetica, cioè a parità consumo energetico si emette molto meno, oppure a parità di emissioni si ha a disposizione molta più energia. E anche molto più denaro, no? Un altro modo per misurarlo è quello, cioè ridurre le emissioni per unità di ricchezza economica creata. E i consigli del CCED, questi del 16 novembre, sono infatti addirittura di investire 674 miliardi di euro per migliorare appunto l'efficienza energetica, promuovere le rinnovabili e così via. E c'è però anche il conto diciamo dei posti di lavoro che colpisce. Eh sì, si stima che si potrebbero creare una decina di milioni di nuovi posti di lavoro. Attenzione, parliamo della Cina, dove i numeri sono completamente diversi, certo, dai nostri. Certo. Su una base di 1.5 miliardi di persone. Qualche anno fa avevano deciso di fare centrali elettriche in un anno pari a circa 70.000 megawatt, l'intera capacità installata che aveva l'Italia in quello stesso periodo. In un anno loro la facevano. E invece si perderebbero dei vecchi posti di lavoro, sempre il CCED, 1 milione di posti, quindi 1 milione di posti persi ma 10 guadagnati, e quindi insomma tutto bene. Ma questo vuol dire anche che per le aziende italiane, per tutte le aziende del mondo in realtà, si apre un mercato straordinario. Io so che tu sei stato a Shanghai e mi hai raccontato, quando sei tornato, proprio un caso che insomma possiamo prendere un po' ad esempio. Ma è una cosa molto interessante. Un'azienda italiana si chiama Canon, noi non la conosciamo perché non arriva a noi consumatori. È uno dei più importanti produttori al mondo di macchine per produrre il poliuretano, che poi è la plastica, le schiume, i materassi, la plastica morbida, e loro sono i principali produttori al mondo di macchinari per produrre. Hanno inventato un nuovo tipologia di schiuma plastica, di poliuretano, insieme con la Dow Chemical, questo colosso americano, la multinazionale americana, questo polo di ricerca e sviluppo in Italia, appunto in Emilia. E insieme hanno sviluppato questa nuova tecnologia. Oddio, uno dice, cosa sarà mai? No, invece è molto interessante. Invece è molto interessante perché le hanno adottate per produrre le imbottiture che noi abbiamo dentro al frigorifero. Noi non le vediamo perché sono chiuse tra la cassa d'acciaio di lamiera esterna e il pannello interno. E il pannello di plastica. Ma là dentro interno. È pieno di una schiuma poliuretanica di solito. Esattamente. Che... ed è l'elemento isolante, cioè, è l'elemento che impedisce al calore di entrare dentro il frigorifero, o viceversa, impedisce al freddo di uscire, per intenderci. Ed è la base delle efficienza energetica di un frigorifero. Allora, con questo tipo di schiuma basata su una particolarità, hanno usato il sottovuoto, cioè, altre... essere piena di bolle d'aria e piena di tanti vuoti, di tanti, no? Vuoti e isola ancora di più. E isola ancora di più, e allora ha un effetto isolante strepitoso. Cosa vuol dire? Vuol dire che ottieni lo stesso effetto isolante con uno spessore minore, quindi hai più spazio dentro il frigo, oppure se mantieni lo stesso spessore dell'imbottitura avrai un'efficienza, non perde calore. La Haier, che è il più importante produttore al mondo di frigoriferi, ha deciso di adottarla per le sue linee produttive. Quindi loro... insomma, un'azienda italiana va lì, propone qualcosa di nuovo, un materiale innovativo, e trova nella Cina orecchie che ascoltano. Il principale produttore del mondo si mette a fare frigoriferi ad alta efficienza. Compressore, quello che serve per raffreddare, funziona tra il 10 e il 15% del tempo in meno, quindi risparmi corrente elettrica per far andare il compressore, ma in alcuni casi si arriva fino al 50%. Già solo col 10-15% nella sua vita utile del frigorifero, il risparmio conseguito è pari al costo di acquisto del frigorifero. Praticamente è gratis il frigorifero. Grazie Jacopo Giliberto. Grazie a te, grazie a tutti voi. È tutto, a domani.